Io chiedo scusa in anticipo a tutti gli ascoltatori perché l'argomento è trito e ritrito, è già stato ampiamente dibattuto anche in questa sede e per di più una mezza idea che il mio punto di vista in merito rischi di essere pericolosamente confuso con quello di personaggi con cui preferirei non avere nulla a che fare. Ma non so cosa dirvi. A me l'idea di pagare 4.000 lire l'anno per finanziare il sistema dei partiti rimborsandone le spese elettorali proprio non va giù. E non solo perché personalmente non riesco a vedere per quale dei partiti di quel sistema potrei eventualmente votare. So che il problema è di natura più generale, non mi sfugge il fatto che 4.000 lire rappresentano in definitiva un esborso trascurabile, non ignoro che con le tasse che pago finanzio delle realtà ancora più discutibili come quella militare, mi rendo conto del fatto che sarebbe troppo comodo sottrarsi agli obblighi fiscali in nome delle destinazioni di spesa. Capisco i motivi che spingono tanta brava gente impegnata in politica, qualcuno c'è, a sperare che la legge approvata giovedì dalla Camera diventi presto definitiva, perché le elezioni europee sono alle porte e chi può permetterselo la sua campagna l'ha già cominciata da un pezzo, ma proprio non riesco a convincermi. L'impressione è che quando quella legge sarà approvata in via definitiva, le regole del gioco politico subiranno una distorsione in più, che la nostra stessa libertà ne sarà ulteriormente conculcata, non riesco proprio a togliermela dalla mente. Perché vedete, il problema non è solo quello dell'arroganza dimostrata da una classe politica che ha deciso all'unanimità di calpestare allegramente gli esiti del referendum del 93 e di chiudere gli occhi di fronte al rifiuto altrettanto esplicito manifestato dai cittadini verso il finanziamento consensuale del 4 per 1000. Quella di trovarsi sul collo una classe politica arrogante è una disgrazia che può capitare a tutti ed è di solito temperata dalla speranza di potersene prima o poi liberare. Ma è proprio su questa speranza, ahimè, che agisce una legge come quella di cui stiamo parlando. Il finanziamento ai partiti sarà largamente diffuso nei sistemi simili al nostro, come ci hanno ricordato tutti, ma ha precisamente l'effetto di ridurre il tasso di mobilità politica. Istituzionalizza un certo numero di soggetti a danno di altri. Fa di quelle libere associazioni di cittadini che dovrebbero essere i partiti qualcosa che ricorda un po' gli enti pubblici, degli organismi che lo Stato finanzia in nome delle funzioni che gli riconosce e che naturalmente si impegneranno più o meno esplicitamente a non esorbitare da quelle funzioni. Da che mondo è mondo, il finanziamento è sempre sinonimo di controllo e se è riservato, come non può che essere riservato, a un ben definito numero di soggetti, significherà anche una convenzio ad escludendum, la volontà di escludere dal gioco chiunque altro. Le possibilità che chi non è finanziato si conquisti sul campo il gallone di finanziabile contro chi finanziato vuoi già sono talmente remote che non vale la pena di prenderlo in considerazione. Gli unici nuovi partiti che una legge del genere può prevedere, di fatto li prevede, sono quelli nati per gemmazione, scissione o frammentazione dei vecchi. È difficile che una maggioranza nel cui seno allignano i comunisti italiani o l'UDR, se esiste ancora l'UDR, possa avere una visione creativa dell'evoluzione politica. E poi francamente, da chi afferma ad agire in nostra rappresentanza e nega a chiunque altro di adempiere a questa funzione, si dovrebbe chiedere almeno un minimo di coerenza. Da quanto ho capito, da tutti i dibattiti radiofonici e televisivi cui mi sono sottoposto, compreso quelli a Radio Popolare, la necessità di farsi finanziare dallo Stato, necessità su cui naturalmente concordano anche quanti per bassa demagogia hanno votato contro, è motivata con l'unico argomento del bisogno. Poche storie ci hanno detto con maggiore o minore tracotanza i sottolider incaricati di questa sgradevole bisogna. E poche storie, la politica costa, i cittadini di soldi volontariamente non ne cacciano, se qualcuno ne cacciasse ci sarebbe da preoccuparsene e di questi quadrini abbiamo bisogno. E certo, l'argomento del bisogno è una cogenza che non intendo mettere qui in discussione, ma santo Iddio. La liceità di questo argomento i politici italiani la riconoscono soltanto a se stessi. In nessun altro campo, mi sembra, si ritiene che il fatto che qualcuno abbia bisogno di qualcosa comporti un'immediata erogazione. Non in quello della sanità, certamente, dove di bisogni non c'è penuria, e in cui il problema mi sembra sia quello di ridurre le spese più che aumentarle, o né in quello della previdenza, della scuola, della cultura, del lavoro e via dicendo. L'ideologia neoliberista e neomercantile che grava come una cappa di piombo sulla politica il pensiero unico a cui si rifanno con encomiabile coerenza tutti i governi che si succedono di destra, di centro, di sinistra, impone che ciascuno se la cavi da solo, e se no tanto peggio per lui, ciascuno evidentemente tranne i partiti. E non venitemi a dire che i nostri nemici di quattrini ne hanno e noi no, e che quindi non possiamo permetterci d'essere troppo rigorosi. Lo sapete anche voi che questa pioggia di miliardi in buona parte andranno anche ai nemici in questione e non cambieranno certamente i rapporti di forza. Loro saranno sempre più ricchi e più potenti. Per questo, d'altronde, sono i nostri nemici. Noi, quando ci saremmo spogliati in cambio di quei pochi soldi e del nostro rigore, con che cosa pensiamo di batterli, scusate? Attend you gallant Irishmen and listen for a while, I'll sing to you the praises of the sons of Erin's Isle. It's of those gallant heroes who voluntarily ran to release two Irish shamrocks from an English prison van. Hurrah!